Benvenuti. Allora, oggi sul tavolo abbiamo qualcosa di molto particolare. Una serie di manuali per una suite di software, una specie di coltellino svizzero per, diciamo, manipolare il linguaggio. Il nostro obiettivo non è tanto fare una recensione, ecco. Vogliamo più che altro capire la filosofia che c'è dietro. L'idea di fondo che emerge da queste pagine è usare l'intelligenza artificiale per adattare un testo, per semplificarlo, o addirittura per renderlo più complesso. E la domanda è: questi strumenti ci aiutano a comunicare meglio o ci ingabbiano in regole un po' troppo rigide? E guarda, il punto di partenza per capire tutto è un dettaglio tecnico che però cambia completamente le carte in tavola. Tutti questi programmi girano grazie a un software che si chiama Ollama, e questo permette all'intelligenza artificiale di funzionare localmente. Localmente, cioè direttamente sul mio computer. Esatto, proprio sul tuo computer. Non si invia nulla a un server esterno, a Google, a OpenAI, niente di tutto ciò. Ah, questo è un punto cruciale. Significa che tutto ciò che scrivo resta privato e che, in teoria, posso lavorare anche senza internet. Però i manuali dicono che non basta installare il programma, bisogna dargli un cervello. Sì, è l'analogia perfetta, direi. Prima di iniziare bisogna scaricare quelli che tecnicamente si chiamano modelli, ma possiamo immaginarli proprio come cervelli artificiali, ognuno con la sua personalità. I manuali ne citano alcuni: Llama 3, Qwen 2.5, Mistral. E ognuno è diverso. Sì, magari uno è più veloce ma meno profondo, un altro è un campione con l'italiano, un altro ancora è un ottimo tuttofare, diciamo. La scelta del cervello è il primo passo, perché influenza tutto quello che il software farà dopo. Bene, entriamo nel vivo allora. La suite si apre con due strumenti per rendere i testi più facili da capire: adattatore universale e scrittura controllata. A prima vista, sembrano fare la stessa cosa. Ma leggendo i manuali si capisce che l'approccio è completamente diverso, come due artigiani, uno che usa l'istinto e l'altro il righello. Precisamente. L'adattatore universale è l'artigiano istintivo. È pensato per chi ha bisogno di un risultato rapido, efficace, un insegnante per dire, che deve adattare una lezione per il giorno dopo. Non segue protocolli scientifici ferrei, ma agisce su tre livelli di intensità. E il primo livello è chiamato facilitazione lieve. Sembra un intervento molto soft. Di che si tratta? Corregge la grammatica. No, è molto più sottile. L'idea non è cambiare le parole, ma guidare l'occhio di chi legge. L'IA, in questo caso, non tocca la sintassi, lavora sull'impaginazione. Ah, sulla grafica del testo. Esatto. Immagina una pagina di un libro di storia. L'IA metterà in grassetto i nomi e le date, dividerà il testo in paragrafi più corti e magari aggiunge una breve spiegazione tra parentesi per un termine tecnico come latifondo. Praticamente è un grafico editoriale automatico. Rende la pagina meno intimidatoria. Capisco. Quindi migliora la navigabilità del testo, per così dire. Poi però si passa a un livello più deciso, alta leggibilità, che i manuali legano agli standard per i DSA. Qui l'IA inizia a mettere le mani nel testo vero e proprio. E qui l'intervento diventa chirurgico, ma sulla struttura della frase. L'obiettivo è proprio abbattere le barriere sintattiche. L'IA riscrive il testo seguendo regole chiare, frasi corte, non più di 20-25 parole, e una struttura semplice e diretta, soggetto, verbo, oggetto. Via le forme passive, via le costruzioni complesse. Perché richiedono uno sforzo in più per essere capite. Esatto, un passaggio logico in più per il cervello. E si inizia anche a preferire il lessico del cosiddetto vocabolario di base. Le parole che usiamo tutti i giorni. E poi c'è il terzo e ultimo livello, la semplificazione massima. La definizione del manuale è quasi poetica: estrarre i nuclei fondanti di un testo. Sembra un'operazione drastica. E lo è. Qui l'obiettivo è la pura trasmissione del concetto, senza fronzoli. L'IA taglia via quasi tutto quello che non è essenziale: aggettivi, avverbi, dettagli secondari. Le frasi diventano brevissime e il vocabolario si restringe alle 2000 parole più comuni dell'italiano, il vocabolario fondamentale. E a chi si rivolge uno strumento così estremo? È pensato per situazioni limite. Uno studente appena arrivato in Italia che non parla la lingua, per esempio, o una persona con disabilità cognitive, per cui anche una frase semplice può essere un ostacolo. È molto interessante questa progressione, però mi chiedo, Queste regole, questi livelli, da dove arrivano? Sono decisioni degli sviluppatori o c'è un fondamento più solido? E qui la cosa si fa davvero interessante. I manuali sono molto trasparenti su questo punto. Non sono scelte arbitrarie, no? I principi di riscrittura si basano sugli studi di una linguista italiana, Maria Emanuela Piemontese, che è una delle massime esperte in questo campo. Ah, quindi c'è una base accademica? Certo. E le idee sulla struttura visiva invece vengono da linee guida internazionali. Per esempio quelle dell'IFLA, la Federazione Mondiale delle Biblioteche, o quelle di Inclusion Europe, un'associazione che si occupa di disabilità intellettiva. E c'è persino l'influenza di una rivista storica italiana, Due Parole, specializzata proprio in testi ad alta leggibilità. C'è ricerca solida dietro. Ok, chiarissimo. Quindi l'adattatore universale è una specie di correttore automatico per la chiarezza. Ma se l'obiettivo non fosse solo correggere un testo già scritto, ma imparare a non fare più quegli errori, i manuali propongono un altro strumento, la scrittura controllata, che mi sembra vada proprio in quella direzione. Esatto. E questo ci porta all'artigiano che usa righello e squadra. La scrittura controllata è molto più rigorosa, quasi un ambiente di apprendimento. E la sua genialità sta nelle due modalità operative, che i manuali battezzano in modo molto efficace. Bacchetta magica e coach. La bacchetta magica mi sembra abbastanza intuitiva. Faccio una magia e il testo si trasforma. Proprio così. È la modalità automatica. Inserisci un testo complesso, selezioni uno dei protocolli scientifici e l'IA lo riscrive da cima a fondo secondo quelle regole ferree. È l'automazione al massimo. Tu fornisci il marmo grezzo, la macchina ti restituisce la statua. E poi c'è la modalità coach, l'allenatore. E qui credo sta la vera innovazione, no? È un cambio di paradigma totale. In questa modalità l'IA non riscrive assolutamente nulla. L'utente scrive il proprio testo e poi clicca un pulsante. A quel punto il software non corregge, ma produce un report, una lista di violazioni. Una lista di violazioni? Sì, ti dice per esempio, guarda che alla riga 5 hai usato una frase passiva, che è vietata dal protocollo. Oppure, la parola pernicioso non fa parte del vocabolario consentito. Ah, ho capito. Quindi non ti dà il pesce, ma ti insegna a pescare. Spetta a me tornare sul testo e fare le modifiche, usando il report come guida. È un processo attivo. Esattamente. È un allenatore personale per la scrittura inclusiva. Invece di delegare il compito alla macchina, usi la macchina per capire i tuoi errori e migliorare. Però non c'è il rischio di creare una dipendenza al contrario? Cioè, invece di imparare a pensare in modo più semplice, imparo solo a superare il test del software? La tua obiezione è molto acuta. È un rischio reale, sì. La speranza, come lasciano intendere i manuali, è che con la pratica queste regole vengano interiorizzate, che diventino un automatismo mentale. Ma il pericolo è che diventi un puro esercizio per ottenere il bollino verde esiste. Dipende molto da come lo si usa. E questo ci porta ai protocolli, che sono ancora più rigidi e dettagliati di quelli visti prima. Sì, i manuali parlano di 3 protocolli, legati a livelli di competenza, definiti in modo un po' scolastico, insufficiente, mediocre e quasi sufficiente. Partiamo dal primo. Il livello 1, insufficiente, è un corsetto strettissimo. Le regole sono matematiche, frasi sempre sotto le 15 parole, il soggetto sempre esplicito, e il vocabolario è limitato alle 2000 parole del vocabolario fondamentale. Scrivere un testo con questi vincoli è una vera sfida. Immagino. E il livello 2, mediocre? Allenta un po' la presa. Un po', sì. Le frasi possono arrivare fino a 20 parole, sono concesse subordinate semplici, una causale con perché, per esempio, e il vocabolario si allarga per includere anche le parole di alto uso. Diciamo che si passa da una prosa telegrafica a una scrittura più fluida. E infine il livello 3, quasi sufficiente, che dovrebbe avvicinarsi a una scrittura standard, ma sempre controllata. Esatto. Qui le frasi possono essere più complesse, si possono usare subordinate più articolate, e il lessico si espande a tutto il vocabolario di base, circa 7000 parole. È la scrittura chiara e diretta che dovrebbe essere lo standard per la comunicazione di un ente pubblico, per capirci. E anche qui immagino dietro a questi numeri c'è un mondo di ricerca. Assolutamente. Il rigore metodologico è ancora più evidente. La Bibbia per la scelta delle parole è il nuovo vocabolario di base di Tullio De Mauro, l'opera di riferimento che ha mappato la frequenza delle parole in italiano. Quindi De Mauro ha fatto una specie di classifica delle parole più usate e il software la usa come dizionario. In pratica sì. e i protocolli stessi, con i tre livelli, sono ispirati alle linee guida del MIUR per creare materiali didattici per studenti con bisogni educativi speciali. Persino la lunghezza delle frasi è calibrata usando l'indice di leggibilità Gulpase. Dietro a 15 parole c'è un calcolo preciso, non un'opinione. Fin qui tutto il discorso è stato sullo smontare, sul semplificare, ma sfogliando i manuali ho trovato uno strumento che sembra fare l'esatto contrario. Si chiama concettualizzatore e inverte completamente la rotta. Non si parte da un testo difficile per renderlo facile, ma da un'idea semplice per generare concetti complessi. L'esempio del manuale è folgorante. Si parte da un mare di problemi. È un cambio di prospettiva totale, vero? Concettualizzare nel linguaggio di questo software significa prendere un'immagine e usarla come un seme. Un seme per far germogliare idee astratte, articolate. E la cosa più interessante è che non esiste uno solo. È una famiglia di applicazioni, ognuna con un colore e uno scopo diverso. Analizziamole, perché qui si vede la versatilità della suite. C'è una versione standard, in viola. A chi si rivolge? Quella è la versione per il mondo accademico. Universitari, ricercatori, saggisti. Partendo da un mare di problemi, l'IA potrebbe generare concetti come la vastità delle implicazioni sistemiche o la fluidità delle variabili interconnesse. Sono spunti di alto livello per arricchire un testo argomentativo. Ok, è uno strumento per espandere il pensiero. E la versione junior, in arancione, è solo una versione più facile? Ha uno scopo didattico preciso, pensato per le scuole medie. Non produce concetti astratti, ma sei espressioni rigorose basate sulla struttura nome più aggettivo. Da un mare di problemi potrebbe tirare fuori difficoltà insormontabili, questioni complesse, ostacoli continui. L'obiettivo è insegnare a passare da un'idea generica a un lessico più specifico. E poi si torna al vocabolario di base, con due versioni che mi hanno molto incuriosita. La prima è la VDB1, in verde. Ah, questa versione verde è affascinante. Impone all'IA un vincolo quasi impossibile. Può generare concetti usando solo le 2000 parole del vocabolario fondamentale. Una sfida creativa enorme. Esatto. Lo scopo è dimostrare che si può parlare di cose complesse anche usando un linguaggio semplicissimo. È uno strumento di inclusione concettuale, non solo linguistica. E per finire la versione VDB All, in blu, che sembra essere la via di mezzo. E la versione dell'equilibrio. Usa tutte le 7000 parole del vocabolario di base. Non è semplice come la VDB1, ma non è accademica come la standard. È lo strumento perfetto per la comunicazione istituzionale. Un comune potrebbe usarla per generare idee e frasi che siano autorevoli, ma allo stesso tempo chiare per la maggioranza dei cittadini. È incredibile. Mettendo insieme i pezzi, questa suite copre davvero l'intero spettro. Dalla semplificazione estrema per chi ha difficoltà di lettura, fino alla generazione di idee per un saggio universitario. È un vero e proprio arsenale per calibrare il linguaggio. E alla fine, se guardiamo il quadro generale, il filo conduttore è proprio questo. Non si tratta solo di semplificare o complicare. Il principio è la manipolazione linguistica controllata e finalizzata. Ogni funzione è progettata per sintonizzare un messaggio sulla frequenza esatta di chi lo deve ricevere. L'obiettivo è creare una corrispondenza perfetta tra il messaggio e il suo destinatario. E mentre ne parliamo, mi viene in mente una cosa. Finora abbiamo analizzato le applicazioni buone, diciamo, la scuola, l'inclusione, la ricerca, ma un potere del genere, questa capacità di regolare la complessità di un messaggio come si regola il volume di una radio. Cosa succede se lo applichiamo ad altri campi? Immaginiamo la comunicazione politica. Si potrebbe creare lo stesso messaggio in tre versioni, calibrate per pubblici diversi. O pensiamo al marketing. O alla scrittura di contratti legali. Questa capacità di rendere un testo volutamente semplice o volutamente complesso apre scenari potentissimi e solleva anche qualche domanda a cui forse dovremmo iniziare a pensare.